La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana, in questo lunedì 30 di marzo, sono le 16.30 primi 38 secondi e un augurio che si chiama Secondo, appunto perché oggi è San Secondo. Allora, vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per segnalarci temi, ospiti, critiche, eccetera, eccetera, e il numero per decidere se intervenire oggi, vi dirò immediatamente il tema al nostro ospite, il numero è 800 24 00 24 per telefonare, 349 238 6666 per gli sms, quindi le vostre opinioni. In realtà il tema della trasmissione di oggi dipende dalla forte impressione che mi ha fatto buona parte degli messaggi che ci avete mandato sabato mattina, quando a Conte della Belva abbiamo parlato di un tema attinente a quello di cui parliamo oggi. Anche sabato mattina abbiamo parlato di una specie di scontro tra due principi molto importanti: da una parte la sicurezza e dall'altra la libertà. Ne parlavamo a proposito dell'ipotesi di un controllo in remoto da parte dello Stato sui PC e gli smartphone di tutti noi, per esigenze di antiterrorismo, ma non solo. E la stragrande maggioranza degli sms che ci avete mandato sabato mattina erano in realtà favorevoli a questa tesi, alla quale io sono contrario, ma conta poco. E quindi, per la stessa ragione, su un tema che è analogo, sia pur parlando di un altro aspetto del codice penale, vi chiedo fuori dai denti. Da quello che avete capito, e che adesso ricapitoleremo, dell'aggravamento di norme che è all'esame del Parlamento per quello che riguarda i tempi di prescrizione dei reati, cioè il numero di anni necessari dopo i quali diventano non più procedibili, no? Voi siete favorevoli ad estendere così tanto come questo disegno di legge che sta andando e venendo dalle due Camere per difficoltà all'interno della maggioranza da un bel pezzo, da più di un anno? Siete favorevoli, volete termini di prescrizione molto più lunghi, non solo per correggere la diminuzione avvenuta ai tempi dei governi Berlusconi, ma perché pensate che per esigenze di sicurezza collettiva sia giusto, per così dire, fare stato che abbiamo una giustizia dai tempi molto lunghi? Inutile pensare di volerla dai tempi più brevi, tanto vale essere realisti, prendere atto che i tempi della giustizia sono molto lunghi, ma a questo punto allungare i termini di prescrizione, perché altrimenti troppa gente la fa franca. La pensate davvero così? Meglio il realismo e tempi di prescrizione più lunga piuttosto che ribadire che ci vorrebbe una giustizia che per essere efficace deve avere tempi più brevi? Naturalmente tempi più brevi significa anche maggior rispetto del diritto degli indagati e degli imputati, che altrimenti corrono il rischio, con tempi ancora più lunghi, se innocenti, di avere la vita, e la vita significa proprio la vita, rovinata in una maniera che poi non è che potrà essere più di tanto risarcita dalle azioni che intenteranno col nuovo regime della responsabilità civile o per l'ingiusta detenzione. Però mi interessa molto capirlo, perché effettivamente sabato ci avete molto sorpreso, e quindi io non mi meraviglierei affatto, né mi permetto di giudicare se la stragrande maggioranza di voi anche oggi dicesse: anche sulla prescrizione tanto vale avere i tempi più lunghi. Allora, su questo tema domani, e questo è lo spunto informativo da cui partiamo, l'Unione delle Camere Penali Italiane tiene un grande incontro con molti avvocati, ovviamente da tutta Italia, che intervengono in maniera critica su questa norma, con esponenti della dottrina e politici di praticamente tutti i partiti, per confrontarsi intorno a questo testo nuovo che sta avanzando in Parlamento. Che cosa prescrive? Tentiamo di spiegarlo in maniera non troppo tecnica, cioè in maniera tale che non siano solo gli esperti di procedura penale a capirlo. Ecco, il testo su cui la Camera ha detto sì è un testo che prevede l'aumento dei tempi di prescrizione per alcuni reati molto gravi, quelli di corruzione propria, quelli su cui naturalmente è molto forte l'attenzione dopo vicende come quella avvenuta al Ministero delle Infrastrutture, Incalza e così via, Mafia Capitale, l'Expo, eccetera, eccetera. Ecco, per i reati di corruzione il termine base di prescrizione aumenta del 50%, del 50%, cioè in parole povere, per i reati di corruzione la prescrizione può arrivare fino a 21 anni e 6 mesi dal compimento del reato, 21 anni e 6 mesi di prescrizione. È prevista in generale, in realtà, ecco, per tutti i reati, una sospensione della prescrizione per 2 anni nel caso in cui ci sia una condanna in primo grado, e poi una sospensione della prescrizione di un altro anno se interviene una condanna in appello. Quindi nel caso in cui nei primi due gradi di giudizio, il giudizio di merito di primo grado di appello, ci sono state due condanne, la prescrizione aumenta di 3 anni perché non decada il giudizio di legittimità del terzo grado, cioè quello della Cassazione. Queste sono le due norme di tipo generale, per così dire. Poi per i reati, quelli gravi commessi contro i minori, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo da quando la vittima ha compiuto il 14° anno di età, e questa è una tutela particolare per i delitti, violenza eccetera eccetera nei confronti di minori. Anche qui si allunga a seconda, a questo punto, dell'età della vittima. C'è chi ha sostenuto, di fronte a questo allungamento sistemico, e un allungamento poi più grave di quello sistemico di fronte ad alcune fattispecie di reato considerate di particolare gravità sociale, che in ogni caso questo giro di vite non è adeguato, perché siccome le nuove disposizioni si applicheranno, secondo il testo della Camera, solo ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore, bisognerà aspettare in realtà 10 anni, 15 anni prima che davvero se ne vedano gli effetti. E questo è in particolare risuonato sulla bocca di alcuni magistrati che dicono: bah, sulla corruzione bisognava applicare da subito ai procedimenti oggi aperti questo tipo di giro di vite. Ecco, ho sintetizzato in maniera non troppo tecnica, ma per darvi la possibilità di intervenire. Siete favorevoli a questa nuova impostazione? Allora, per parlarne oggi, io ho cercato anche, devo dirvi la verità, ci siamo rivolti all'NM, alle diverse correnti della magistratura, e però non abbiamo trovato stamattina, per una ragione o per l'altra, non poteva praticamente nessuno. Di sicuro però non avevo dubbi nell'invitare il Presidente dell'Unione delle Camere Penali, che appunto domani apre il dibattito pubblico mentre ferve quello politico in Parlamento, e quindi è con noi appunto il Presidente dell'Unione delle Camere Penali, l'Avvocato Beniamino Migliucci. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Presidente. Buon pomeriggio e grazie a voi. Allora, posso chiedere qual è la vostra valutazione nel dilemma realismo e quindi giustizia? Coi tempi attuali, inutile immaginarne a breve una più breve, e tanto vale però allora che questa giustizia, così com'è, non si lasci sfuggire la possibilità di giudicare nei tempi che oggi le sono proprie reati che altrimenti andrebbero impuniti. Questa impostazione, che è quella difesa dalla maggioranza che porta avanti questa misura, secondo voi in che cosa sbaglia? Sbaglia perché è un'impostazione demagogica. Intanto dobbiamo dire che dal 2005 al 2013 il numero delle prescrizioni si è praticamente dimezzato, e quindi non c'era un'urgenza di interventi radicali e poco approfonditi. Ma si è dimezzato per effetto delle norme che diminuivano, quelle appunto governi Berlusconi e così via, i tempi, oppure si è dimezzato per quale altra ragione? No, allora diciamo che la ex Cirielli, che non piaceva per tante cose, uno dei pochi effetti che non ha avuto è stato quello di allungare i tempi del processo, nel senso che vi sono state meno prescrizioni proprio determinate anche da quella legge, che a noi non piace per tante altre ragioni, ma nell'esporre i dati bisogna dire che dal 2005, quando è entrata in vigore, in poi le prescrizioni sono diminuite. Il secondo aspetto che da porre in evidenza è che il 70% delle prescrizioni maturano nella fase dell'indagine, e quindi quando ancora l'avvocato non c'entra nulla, e quindi c'è anche un problema di lentezza delle indagini. Il terzo punto importante da comprendere... Lei sa, che... aspetta, lei sa, sì. Ne approfitto man mano che individuo certo. I punti, lei sa che un'opinione molto fortemente sostenuta da diverse correnti della magistratura è che l'osservazione che alla prescrizione si arriva per molti reati in fase di indagine dovrebbe indurre a incardinare i tempi della prescrizione dal momento della notizia del reato e non dal compimento dell'eventuale fatto di reato, e che questo sarebbe la soluzione a questo tipo di problema. Sbagliano i magistrati? Sbagliano nel senso che intanto bisognerebbe che vi fosse certezza sulla iscrizione della notizia del reato, cioè sulla correttezza della stessa, e su questo noi nutriamo tante perplessità, perché non c'è neanche nessuna sanzione vera quando non vi sia una corretta iscrizione della notizia dei reati. Poi basta guardare, per essere molto concreti, anche gli ultimi reati legati a mafia capitale, i fatti sono abbastanza recenti e generalmente si scoprono in fretta. Il problema è che la magistratura associata vorrebbe che dall'inizio dell'esercizio dell'azione penale, da quel momento in poi, tutto sarebbe valido e quindi un processo potrebbe durare l'eternità. Io dico che bisogna guardare quali sono i dati concreti. Allora, diciamo subito che i reati contro la pubblica amministrazione che si prescrivono sono circa il 3,5-3,7%. Diciamo subito che in Italia, dato che lei giustamente citava che vi è anche una sospensione di 2 anni dopo la sentenza di primo grado, e quindi se uno viene dichiarato colpevole, il 46% delle sentenze di primo grado viene rifermato in appello. E quindi lei pensi che danno ha la persona che poi venga riconosciuta innocente in appello da una sentenza di condanna che arresta anche i termini della prescrizione per 2 anni e rende più lungo il processo per 2 anni. Abbiamo delle regole costituzionali, che l'articolo 111 della Costituzione, che è l'articolo più dimenticato della nostra Costituzione, che indica come regola la ragionevole durata del processo. Quindi dire che in Italia i processi devono durare a lungo per ottenere una sentenza significa anche violare le regole della Costituzione e significa anche abdicare a quello che dovrebbe essere un dovere dello Stato, non solo nei confronti degli imputati ma anche delle persone offese. Cioè sarebbe necessario che il nostro paese si munisse degli strumenti necessari per rendere ragionevolmente breve un processo, e allora non si può, dopo che vi è una sentenza etica o dopo che c'è uno scandalo di corruzione, dire da una parte aumentiamo le pene perché così ci si pulisce o ci si lava la coscienza dicendo siamo contro la corruzione e aumentando le pene è notorio che non si combatte proprio nulla, e dall'altra parte invece di far aspettare i cittadini 20 anni o 21 anni e 6 mesi come diceva lei per una sentenza di condanna o di proscioglimento, bisognerebbe individuare il modo per arrivare al punto zero delle prescrizioni, che è qualche cosa alla quale tendiamo tutti, anche gli avvocati, però cercando di influire sulle regole e non allungandosi nei dei processi. Le voglio fare un ultimo esempio. Lei pensi quante misure patrimoniali accompagnano spesso i processi penali, cioè sequestri preventivi? Lei pensi a una condanna in primo grado che poi venga riformata in appello dopo tanti anni, il danno anche economico che una persona potrebbe subire da questo rallentamento, senza contare che ci allontaniamo anche da un altro principio costituzionale, che è la presunzione di innocenza. Cioè non è che perché io vengo condannato in primo grado il processo si deve rallentare perché viene affievolita quella presunzione. E poi ci si allontana sempre dallo stesso articolo, perché dobbiamo anche ricordarci che la nostra pena dovrebbe tendere alla rieducazione, quindi 20 anni dopo una persona dovrebbe essere diversa. Allora, già diceva Beccaria, le pene dovrebbero essere effettive, dovrebbe esserci certezza della pena, ma la pena dovrebbe arrivare in un tempo ragionevolmente vicino al fatto che si imputa a una persona. Questa è una questione di civiltà, ricordando anche che la lentezza dei processi, e lo ricordava un ottimo magistrato, il presidente Barbuto, costa circa 8 milioni al mese all'Italia, Allora dobbiamo deciderci, o noi dobbiamo affidarci al fallimento di un sistema per cui noi dobbiamo rassegnarci a dire che i processi dureranno all'infinito, o noi dobbiamo anche cercare invece quelle soluzioni che sono possibili e che noi sottolineiamo per rendere non irragionevole la durata del processo. Ricordando anche un'altra cosa, se mi consente, dottor Genino, che quanto più il processo si allontana dalle indagini, quanto più rientrano nel processo solo le indagini che vengono fatte dal pubblico ministero. Quindi c'è di nuovo una deriva autoritaria, ritorniamo all'idea inquisitoria per cui si raccolgono le prove durante le indagini e verranno riproposte nel processo, perché un processo fatto dopo tanto tempo non consente il recupero della memoria. Ecco perché noi insistiamo e abbiamo invitato tutti i politici, come lei ricordava correttamente, quelli che hanno deciso adesso alla Camera e quelli che dovranno decidere al Senato, perché discutono sotto un profilo culturale nell'interesse dei cittadini. Allora, io ricordo a tutti che naturalmente noi non stiamo parlando solo dei grandi processi, qui parliamo della giustizia che riguarda tutti noi. Molti siamo stupiti per esempio per la sentenza che fa, continua a far parlare molto quello sul caso di Amanda Knox, e guarda che lì ci sono stati 5 processi in 7 anni e dal punto di vista dei tempi ordinari dei procedimenti in Italia è un record assoluto, ma è un record assoluto di brevità e di sollecitudine, perché se lo sognano gli imputati ordinari di avere tempi così brevi. E certo c'è molto da riflettere su quel processo, sulle indagini, come sono state fatte nella fase iniziale. Ricordo a tutti che noi viviamo in un ordinamento in cui le indagini di polizia giudiziaria sono affidate al solo pubblico ministero. Oggi trovate sul Corriere della Sera l'intervista del presidente della Corte d'Appello di Perugia, che assolse, come poi confermato oggi dalla Corte di Cassazione sollecito, fu ghettizzato dai suoi colleghi, e lui a raccontarlo fino al punto di andare in pensione di fronte a delle prove che, come la Cassazione dice, oltre ogni ragionevole dubbio non potevano in ogni caso, qualunque cosa pensiate, consentire una condanna, e tantomeno a 25 e a 28 anni. In ogni caso, la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:49 primi, parliamo dell'allungamento dei tempi di prescrizione per i reati, e come promesso inizierò a leggere un po' delle vostre tantissime opinioni giunte per sms, e poi passiamo alle telefonate. Allora, c'è chi come Marco dice: toglierei la prescrizione per dipendenti statali e politici. Però Marco, la legge deve essere uguale per tutti. Comunque, questa è la tua opinione. Dice Tommaso da Vicenza: tempi più brevi e prescrizione abolita. Un altro sms: prescrizioni tempi attuali, ma dopo il primo processo non è più possibile la prescrizione. Altro sms: i tempi devono essere brevi, ma devono partire dal momento in cui i reati vengono scoperti e non dal momento in cui, per ipotesi, i fatti delittuosi sono stati commessi. Quindi, dice Mario, anche tempi lunghissimi, in questo caso se la giustizia non se n'era reso conto. Molti messaggi comunque me li aspettavo, sono favorevoli ai tempi più lunghi di prescrizione. Direi che sono a occhio e croce la maggioranza, una ventina almeno. Giuseppe San Nazzaro dice: beh, però da quello che avete detto e dall'intervento del presidente Beniamino Migliucci direi che va tutto bene così. No, non mi sento di dire che va tutto bene così, e quindi mi state confondendo solo le idee. Danilo: la prescrizione va abolita e applicata a tutti i processi già prescritti fino a quando la riforma della giustizia ridurrà i tempi di almeno 2/3. Danilo ha le idee radicali, molto liberali invece. Ok a tempi più lunghi. Claudio di Torino dice: però perché non si parla del fatto che i giudici non lavorano abbastanza? Questa è una cosa che fa molto irritare i magistrati, dirlo e ripeterlo. Altri osservano che tanto la nostra opinione non conta nulla, perché conta solo quella del Parlamento. Sì, però un pochino il Parlamento si regola anche con i sondaggi e quello che vede. Sentiamo un po' le telefonate. Cominciamo con Giuseppe da Venezia. Prego, Giuseppe. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, premetto che non sono un esperto di questioni legali, ma sono abituato a ragionare comunque per lavoro in termini di obiettivi misurabili e di indicatori connessi a questi obiettivi. Allora, mi chiedo e vi chiedo, è stata fatta un'analisi approfondita per capire quali sono tutti quei fattori che concorrono per rendere i processi troppo lunghi? Perché se questo non è stato fatto, dire semplicemente i processi devono durare meno, punto, non ha senso. Giuseppe, hai così tanto ragione che siccome in graduatoria, in ranking internazionale sui tempi della giustizia, ne cito solo uno, quello della Banca Mondiale, il Doing Business, andiamo sempre di male in peggio, in realtà le analisi sono state fatte, solo che come sempre in Italia portano a conclusioni divergenti. Per esempio Barbuto, ex magistrato a Torino, che attualmente, a merito dell'attuale ministro, lo riconosco, lavora al ministero insieme al ministro Orlando, e perché Barbuto è noto? Perché a Torino riuscì inalterate le leggi ad abbattere in maniera significativa le pendenze, perché esercitò in maniera, diciamo, attiva, proattiva, i suoi compiti di capo degli uffici giudiziari. Questo non avviene altrimenti, altrove, molto spesso, però i magistrati dicono tutte palle, perché il problema è che qui mancano i personali di cancelleria, noi siamo sottodotati di risorse, quindi ci sono opinioni molto divergenti intorno al fatto che le analisi sono state fatte, ma portano a conclusioni, come spesso capita in Italia, contrapposte. Sentiamo quello che pensa Maurizio da Biella. Prego Maurizio. Sì, buongiorno Oscar. Io dico questo, guardi, penso questo, mi corregga se sbaglio. Le indagini per la corruzione la fa la Guardia di Finanza, quindi è gente molto esperta. A questo punto non fanno un disegno di legge, accorpano dei giudici alle sedi regionali o provinciali della Guardia di Finanza durante le indagini, lavorano con loro, fanno una sede di tribunale, una sala dentro una appunto sede provinciale o regionale, fanno tutto lì, processo e tutto quanto, col giudice lì, le cancellieri. Accorpano della gente che ha già delle indagini in corso, capace, fanno le cose prima, non devono andare tutto in tribunale. Maurizio, alt, fai un po' di diciamo semplificazione di troppo. La Guardia di Finanza, come l'Agenzia delle Entrate, fanno le segnalazioni alle procure per i reati tributari. Tutte le indagini di polizia giudiziaria sono coordinate dai pubblici ministeri e dalle procure in Italia. Quindi non dimenticare che questo è un pilastro del nostro ordinamento, per così dire. A chi poi dice che non c'è abbastanza gente in galera per reati tributari, faccio notare, andatevi a vedere i rapporti annuali della Guardia di Finanza su questo. Noi procediamo con circa 22.000-23.000 segnalazioni di reati tributari da parte dell'apparato dello Stato alle procure ogni anno, e l'ultimo dato è di 222, se non ricordo male, arrestati in fase di indagine per reati tributari. Possono sembrarvi pochi, ma a me francamente non sembrano poche 22.000 segnalazioni di reati tributari l'anno alle procure. Poi quanti vengano condannati e un altro paio di maniche. Sentiamo che cosa pensa Beniamino Migliucci delle telefonate e delle opinioni fin qui raccolte dai nostri ascoltatori. Ma che ha ragione Giuseppe, per esempio, quando dice che per capire come risolvere i problemi bisogna guardare le origini del male, ed era quello che dicevamo prima. Intanto bisogna capire che il 70% matura nella fase delle indagini. Allora perché matura? Si deve fare un'analisi. Bisogna capire perché, quando vengono concesse troppe proroghe che non servono, i tempi morti da quando sono finito le indagini al processo. Questo è uno degli elementi da considerare, così come bisogna considerare la mancanza di risorse, le disfunzioni organizzative. Noi nel 2008 abbiamo pubblicato con l'Euristes un libro dove vengono indicate le vere cause della ragionevole durata dei processi. Stiamo ancora attendendo una risposta. E quindi queste telefonate esprimono effettivamente uno sconcerto che esiste, ma il tema è cercare di comprendere che non si combatte un male peggiorandolo. Quando io sento degli ascoltatori che dicono ma un processo può durare anche 20 anni, beh, dico sì, perché non è il loro processo, perché poi quando ci si trova, sia che si sia persone offese, quindi si abbia perso un caro, si attenda un risarcimento, oppure si attende in modo sospirato di essere riconosciuti innocenti, beh, è già una pena stare 20 anni in un'aula di tribunale. Quindi io credo che bisognerebbe immedesimarsi anche in chi poi i processi li subisce. Li subisce, come no. Senta, Lino di Trento pone una domanda tagliente e dice: ma non è che non solo i magistrati rinviano le udienze per motivi loro, ma anche gli avvocati la tirano in lungo per appinare la prescrizione? Ecco, togliamo un luogo comune. Ogni rinvio che venga richiesta dall'avvocato determina una sospensione del periodo di prescrizione. Appunto. Quindi togliamo questo luogo comune, che è una sciocchezza che spesso viene raccontata, quando lo chiede l'avvocato o per un impedimento dell'imputato c'è già una sospensione della prescrizione. Allora, io auguro al vostro convegno domani di avere una qualche influenza su questa norma. Io sono quasi rassegnato, perché credo che la maggior parte dell'opinione pubblica sia con chi i processi li vuole, o noi più lunghi. Continuate con Radio 24, grazie a Beniamino Migliucci.